Allora siamo al telefono con un compagno. Ciao, ciao Dario. Allora, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, abbiamo appunto già da ieri dato ampio risalto a quanto accaduto al quartiere San Paolo di Torino, quando si è effettuato lo sgombero, uno sfratto di appunto una persona, Peppe, che è stata chiaramente aiutata anche da alcuni manifestanti oltre che dal suo avvocato. Ci sono stati poi degli sviluppi, vi è stata una nuova occupazione, vero Dario? Sì, appunto ieri insomma, è stata già abbastanza convulsa intorno a questo sfratto che si è tenuto nel quartiere San Paolo, che è uno dei quartieri più popolati di Torino. Insomma, a Torino insomma, la questione degli sfratti è una questione, una piaga enorme che si è creata negli ultimi 5-6 anni. Ora siamo arrivati alla classifica particolare degli sfratti eseguiti nelle città d'Italia, al secondo posto proprio solo dietro a Roma, e appunto ieri c'è stato un ennesimo sfratto. Noi, come molte altre volte, come sportello diritto alla casa di zona San Paolo, abbiamo cercato di interporci con un picchetto antisfratto perché questo non venisse eseguito, però insomma l'ingente presenza di forze dell'ordine che hanno prima militarizzato la zona è proprio ancora con le luci, cioè con il buio della notte, hanno di fatto sgomberato il picchetto manganellando e caricando chi cercava di appunto mettersi il proprio corpo di fronte a questa ingiustizia. Appunto è stata abbastanza la prima volta che a Torino succedeva uno sfratto veniva eseguito con questa determinazione delle forze dell'ordine, che veniva portato a termine con cariche e manganellate. Ovviamente insomma noi non è che una volta che ci siamo trovati a fianco di Peppe, che appunto era l'inquilino, una persona di 60 anni che aveva perso il lavoro nel 2009, non è che ci siamo diciamo arresi, no? Abbiamo cercato prima di seguire un po' quello che era l'iter che gli proponeva il comune, perché proponevano delle soluzioni diciamo tampone, una comunità ed eventualmente poi un alloggio. Poi visto che anche queste proposte, queste soluzioni che venivano insomma portate durante le trattative sono poi scomparse, a un certo punto ci siamo trovati che la giornata stava finendo, che Peppe rischiava di rimanere in mezzo alla strada, e abbiamo pensato che insomma bisognava andare diritti alla casa, e ci siamo andati. Abbiamo occupato una piccola palazzina dentro il nostro quartiere, dove appunto adesso ha trovato un alloggio Peppe, che sicuramente si aprirà anche con dei progetti insomma a tutto il resto della cittadinanza che abita a quella zona, con insomma sono dei progetti di ludoteca, di laboratori di teatro eccetera. Però sicuramente soprattutto abbiamo dato una risposta a questa determinazione delle forze dell'ordine di eseguire lo sfratto e all'esigenza immediata di Peppe di avere un tetto sopra la propria testa sotto cui passare la notte. Senti, anche in relazione a questo sviluppo, insomma, all'azione che è stata compiuta per comunque risolvere il problema, almeno nell'immediato, per Peppe, si è affacciato poi qualcuno, magari promettendo qualcosa? Ma allora, la verità è questa, che generalmente le trattative, noi siamo stati abituati nell'ultimo anno di lotte per il diritto alla casa a farle prima dello sfratto, e tendenzialmente finora quasi tutte le famiglie, cioè tutte le famiglie che abbiamo seguito, hanno trovato una soluzione diciamo con i vari istituti che mette in campo il comune. E ovviamente sono istituti che sono sempre state soluzioni molto parziali e che noi abbiamo sempre ritenuto inadeguate. Dopodiché le famiglie, gli inquilini ovviamente hanno scelto con la loro testa, e hanno scelto insomma anche per soluzioni più facili diciamo. Ieri appunto non è stata fatta nessuna proposta, e dopo l'occupazione nessuno è venuto a cercarci per diciamo capire come eventualmente gestire questa situazione. Quindi ora siamo in una fase diciamo di attesa, cerchiamo di capire. Ovviamente Noi siamo convinti di portare avanti questa occupazione, non è un gesto simbolico il nostro. Come dicevo prima, Torino è la seconda città in Italia come numero di sfratti, ogni anno ne vengono eseguiti sempre più negli ultimi 6 anni, quest'ultimo anno ne sono stati eseguiti 3.500, che comunque per una città che non arriva neanche al milione di abitanti sono moltissimi, e le risposte del comune sono tendenzialmente o l'emergenza abitativa, che vuol dire tendenzialmente un passaggio da degli alberghi, passaggio che può durare anche mesi o anni, e poi eventualmente una casa popolare a tempo determinato, o altrimenti nulla praticamente. E l'anno scorso, per dire, su 3.500 sfratti che sono stati eseguiti, soltanto 400 nuclei di inquilini, nuclei familiari, hanno trovato risposta con l'emergenza abitativa. Quindi diciamo che quello che ci prospettiamo di fronte è di un percorso di occupazioni che da ieri in avanti si moltiplicheranno nella città. Insomma, è un dato di fatto che Torino è una città che storicamente non ha mai avuto grossi problemi, diciamo, da questo punto di vista, perché comunque aveva, diciamo, un tessuto sociale che aveva garantito uno stato sociale abbastanza forte. Negli ultimi anni questo tessuto sociale si è andato a sgretolare insieme al più grosso, diciamo, luogo in cui si lavorava, ovvero la Fiat. Gli affitti continuano a rimanere molto bassi, perché in realtà sono paragonabili agli affitti del sud d'Italia, a Bari, non sicuramente a Milano o altre città del nord. Dopodiché il problema della città è sul reddito, quindi siccome non ci sono prospettive di soluzione per la questione del lavoro, ovviamente la questione della casa diventerà sempre di più un problema a cui, insomma, bisognerà mobilitarci. E le soluzioni non arrivano dal comune, ma probabilmente dovranno arrivare dagli stessi inquilini, che, come ha fatto ieri Peppe, magari aiutati, magari anche in modo autonomo, così dovranno moltiplicare le occupazioni, dovranno riprendersi pezzi di città con le loro mani.